apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Lo dico subito, mi si è gonfiato qualcosa stanotte fra mascella e collo e quindi parlo malissimo, non so che sia, però mi fa un male boia e non riesco nemmeno a inghiottire. Detto questo, per giustificare mie probabili defaillance o svenimenti in diretta, devo fare un mesto punto sulla giornata di oggi. Oggi è lunedì. Già il lunedì non è proprio il migliore delle giornate. Uno dovrebbe fare una legge per spostare l'inizio di ogni attività al martedì, almeno c'è un giorno di compensazione fra l'oblio, fra il passare neghittosi il proprio tempo, fra fare anche cose divertenti, ma insomma essere disimpegnati, perlomeno per la maggior parte dei mortali, magari non per chi fa il nostro lavoro che è disponibile 7 giorni su 7, ma in generale l'area del fine settimana e soprattutto l'area di questo lungo, stenuante, massacrante ponte, fatto di vigilia, fatto di Natale, fatto di Capodanno, fatto di Befana e fatto di una coda ancora più lunga. Cosa c'entrano questi giorni? Passata la Befana si torna a lavorare? No, ci sono 2 giorni, poi c'è nuovamente un venerdì, un sabato e una domenica. Beh, siamo veramente a terra e oggi deve ricominciare la vita, come se nulla fosse, tutto ricomincia da capo, secondo il canone inflessibile della nostra schiavitù che ci vuole lavoratori dal lunedì al venerdì. Le domande della domenica sera. Resisterai al lunedì mattina? Alla disumana tortura della sveglia? Alla rassegnazione che il weekend è finito e ti aspetta un'altra interminabile, estenuante e avvilente settimana di lavoro? Resisterai ai tuoi colleghi? Ai loro finti sorrisi? Al loro alito fetente? Anche quando faranno di tutto per prendersi i tuoi meriti e ti daranno la colpa per errori non tuoi? Resisterai al desolante squallore estetico del tuo ufficio? All'umiliante confronto tra la tua scrivania dell'IKEA vecchio modello e quella in mogano antico con intarsi di madreperla del tuo capo? Resisterai alle riunioni convocate senza preavviso e senza un ordine del giorno, destinate fatalmente a prolungarsi fino ad occupare la pausa pranzo o, peggio, a farti posticipare l'orario d'uscita? Io so che la maggior parte delle persone che mi ascoltano non hanno questo problema, perché in questo momento già sono dentro questo inferno, ci sono fino al collo. I fortunati che in questo momento hanno possibilità di ascoltare in diretta, di chiamare eventualmente allo 00, non mi ricordo nemmeno il nome, all'800 24 00 24, ecco, ce l'abbiamo qui davanti, scusate un attimo, sono molto concentrato su questa sorta di alien che mi sta crescendo nella mascella. Ecco, chiami e dica come ha fatto oggi a rimanere a casa, per quale fortunata scelta della sua vita oggi alle 10 di mattina può starsene a casa facendo magari una gratificante professione casalinga o facendo una libera professione e non entrare in quell'inferno che è stato appena paventato e elaborato. Oggi si ritorna al lavoro, soprattutto nel lavoro d'ufficio, nel lavoro d'azienda. Gettiamo un attimo un pietoso pensiero per i nostri cari amici che sono in ufficio in questo momento. Immaginate, già a me è venuta la depressione quando ho tolto le luci di Natale. Rivedere la casa nel suo quotidiano squallore ha messo una grande tristezza. Mio figlio minore ha pianto per mezza giornata, rivoleva fare l'albero di Natale un'altra volta. Ma ha ragione, è chiaro, nessuno si rassegna alla fine di un momento che, perlomeno all'apparenza, è un improntato alla condivisione generale, alla lietezza, volersi bene, far regali, paccottaglia sentimentalista, però ci fa bene, o perlomeno ne sentiamo la mancanza quando non c'è più. Riaprire oggi gli occhi su una giornata come questa, fatta di nebbie, fatta di inondazioni, fatta di esondazioni. Il Tevere a Roma sembra una sorta di tazzona di caffè latte putrefatto e quasi sembra lambire la strada. Ieri stavano tutti con i telefonini, con le macchinette fotografiche, a fotografare il disastro di un barcone che stava affondando, con i gommoni della protezione civile, i pompieri che con la motosega stanno tagliando delle strutture metalliche. Ho filmato tutto, poi ve lo farò ascoltare. E lì stanno con i telefonini come solluchero della domenica e vedere l'operazione di disastrosa piena delle acque del Tevere. Beh, oggi immaginate negli uffici cosa accadrà. Impiegati, impiegate, colleghi e colleghe rimpannucciati con gli abitucci belli comprati ai saldi, che sembrano belli finché uno li compra, finché uno vede il prezzo abbassato, poi quando li vede addosso un'altra persona manifestano tutto il loro tragico squallore di robaccia comprata a poco prezzo, presa chissà da quale magazzino di paccottaglia di vestiario. Immaginate, oggi saranno tutti euforici, tutti lì pronti, scodinzolanti a fare gli auguri, buon anno cominciato, a leccare, a ruffianarsi, via dicendo, e poi cominceranno le riunioni. Le riunioni sono quel momento totalmente razionale, inutile, non produttivo, in cui le persone stanno lì tutte assieme, colte da una sorta di abbiocco del lunedì, dai pensieri ancora appoggiati, magari, non lo so, al fine settimana che hanno passato, alle cose che ancora devono fare, via dicendo, invece non seguire una cosa noiosissima e inutile, che serve soltanto a gratificare la persona che ha passato da gran ruffiano il fine settimana a preparare le slide da mostrare e essere tanto bravo oggi. Beh, una soluzione ci sarebbe. Qualcuno, forse, delle persone che ci stanno ascoltando, che stanno per telefonare all'800240024, ha provato a fare quello che una volta suggerì un disgraziato collega al suo ancor più disgraziato collega impiegato. La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo. Guardi, è facilissimo, io le ho preparato anche il testo. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce però, Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier. Che sarei? Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Menier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo. Ormai la metodologia della telefonata contraffatta la domenica sera per giustificarsi il giorno dopo, fatta da Filini e Fantozzi, è entrata nella mistica post-situazionista. Tutta una serie di stratagemmi improbabili, però praticati o perlomeno praticabili, dalla pignatta di rame, dall'asciugamano intorno alla testa, dall'imbuto, dalla molletta, dai fagioli in bocca e via dicendo, che naturalmente non sortiscono nessun effetto. Dunque camuffiamo la voce. Molletta. Patata, apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, Non capisco. Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese! Muovi! Fantozzi, è lei? Certo che io questa mattina avevo una meravigliosa giustificazione per non venire a lavorare. La mia gola gonfia, la mia ghiandola che mi sta crescendo, lo sento qui pulsare sotto la mascella a destra. Anzi, se ci fosse un medico in ascolto, mi piacerebbe che mi facesse una sorta di diagnosi indiretta, mi farei visitare, magari potrei marcare visita, o forse ormai è troppo tardi, ci sono già dentro. Devo lavorare, devo affrontare anche io questo lunedì. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Lei come ha fatto a stare a casa oggi? Abbiamo scelto io e mio marito una professione che ci permette di lavorare solo 6 mesi all'anno, 3 giorni alla settimana durante quei 6 mesi, ed è organizzazione di eventi nuziali, banchetti. Vi rendete conto che questa mattina sentire la vostra telefonata non posso fare a meno di dire fate schifo. Beati voi, avete tutta la mia invidia. Lo so, molte persone ci invidiano, ma è stata una scelta coraggiosa che pochi hanno condiviso 10 anni fa, e invece è andata bene. Adesso i risultati si vedono e ci permette di lavorare soltanto 3 giorni alla settimana, da giovedì a sabato, nei mesi estivi. Soltanto quando la gente si sposa? Esatto. Diciamo che la vostra fatica coincide con l'estro erotico matrimoniale degli esseri umani. Poi adesso che stiamo in letargo, voi ve ne state esatto. In panciolle. E pochi scelgono di sposarsi durante il periodo invernale, questo va tutto a nostro beneficio. Ecco, ma come affrontate voi il lunedì? Per voi il lunedì è un giorno come un altro. Esatto. esatto, siamo appena usciti da un bar, siamo andati a bere un caffè, adesso ci dilettiamo nei nostri hobby o nell'andare a trovare le persone che conosciamo, oppure viaggiamo tanto. Ma lei getta un occhio pietoso sui volti tumefatti, contratti, tristanzoli degli altri esseri umani che in realtà condividono la schiavitù del lunedì lavorativo. È una scelta, diciamo che a tutti è aperta questa possibilità, magari di cambiare anche la propria vita, basta un po' di coraggio, quello è vero. In questo momento leggo la telefonata di un disoccupato che ci dice magari potessi lavorare anche lunedì. Sì, mi rendo conto che esiste anche questo doloroso aspetto, mi rendo conto che oggi sembra uno schiaffo alla miseria parlare della fighettaggine dello stress del lavoro lunedì, ma ci consenta l'amico disoccupato almeno questa mattina di dare un po' di spazio ai nostri futili pensieri. Mi rendo conto che è drammatico chi il lunedì si alza perché non ha lavoro e perché ha il problema di dover pensare al proprio sostentamento, a quello della propria famiglia, ma questa mattina si abbandoni per un attimo alla nostra facezia, al nostro sconsiderato e pusillanime desiderio comunque di alleviare ai tanti che invece vanno a lavorare e considerano il lavoro come una condanna, sbagliando probabilmente, un minimo di sollievo. Daniele. Buongiorno. Eccomi qua. Mi sente? Sì, sì, per quanto posso ancora, con il morbo che mi sta affliggendo, comunque la sento. Sì, io ti ho chiamato che sono uno dei, diciamo così, fortunati o sfortunati, dipende dal punto di vista, che oggi sono a casa e ascolto la tua trasmissione. Diciamo così, io sono a casa perché faccio un lavoro legato all'agricoltura, quindi in questa stagione qua siamo, diciamo così, più a riposo che in altre stagioni. Secondo, perché ho la patente sequestrata, quindi sono a casa per forza. Perché cosa aveva fatto? Guida in stato d'ebbrezza? Guarda, un aperitivo alle 8:30, la pre-vigilia di Natale, io sono 51 kg, sono anche a digiuno, mi hanno fregato di brutto proprio. Quindi ci ho preso, guida in stato d'ebbrezza? Caliamo un velo pretoso, lo so, però è la legge, è giusto che ci sia. Comunque questo qua è un altro capitolo, volevo sollevare un attimo, cioè, che dire riguardo al problema della lunedì, diciamo della vita quotidiana. Volevo consigliare, io che personalmente mi ha aperto gli occhi, io ho cominciato a lavorare a 16 anni in fabbrica, ho lavorato 5 anni in turno e questa canzone qua mi ha fatto cambiare idea e dire che 8 ore al giorno, 11 mesi all'anno, 5 giorni alla settimana sono una cosa che non si può sopportare, soprattutto quando uno lo fa dai 16 ai 22 anni, dice io non posso andare avanti tutta la vita con questa ottica qua e deve cercare di cambiare. Diciamo, io ho trovato il mio sistema e volevo, diciamo così, il mio sistema è stato quello di uno, dedicarmi a un lavoro agricolo, in quanto il ritmo lavorativo viene dettato dalla stagione, non più dal cartellino da dover timbrare per forza, qualsiasi ora sia, qualsiasi tempo sia, qualsiasi disgrazia ti capita a casa, perché la fabbrica certe volte ti impone andare a lavorare per non perdere il posto di lavoro, diciamo. Mentre invece l'agricoltura già è un'ottica lavorativa più naturale. Poi sviluppando, diciamo, dall'altra parte delle economie, chiamiamo così, alternative, che mettono davanti al bisogno non la produzione ma l'individuo, diciamo. Cioè che qua bisogna, diciamo così, io ho lavorato, ho cominciato a lavorare a 12 anni, a 16 anni sono entrato in una cooperativa perché pensavo che il sistema cooperativo eliminasse quello che è la figura padronale, mi sentivo abbastanza così. Dopo 5 anni ho capito che il padrone aveva cambiato nome, era diventata produzione e prestigio economico, quindi il mio obiettivo nel futuro è stato creare strutture economiche e lavorative che mettessero il bisogno dell'individuo davanti al bisogno della produzione. E guarda, io le consiglio di aprire una scuola a questo punto, secondo me troverà senz'altro dei proseliti, tra tanti che questa mattina in realtà ancora sono molto indietro rispetto alla risoluzione del problema che lei propone, che lei così felicemente articolato, e quindi proprio per loro diamo queste importantissime istruzioni di servizio. Come evitare il lunedì al lavoro? Darsi malati. Sappiate che bisogna prepararsi il terreno il venerdì. Il venerdì arrivate in ufficio e cominciate a dire che c'è una strana aria e che non vi sentite bene. In pausa caffè raccontate ai vostri colleghi che il vostro partner o un altro vostro familiare si è preso una brutta influenza, che l'avete accudito tutta la notte amorosamente. A mensa prendete una doppia razione di pranzo, mangiatene una e lasciatene un'altra intera nel piatto. Quando vi chiederanno perché non avete mangiato, rispondete che non avevate fame. Tenete addosso il vostro cappotto anche se fa caldo. Fingete una telefonata ad un vostro amico amico a cui dite di dover dare buca per l'uscita serale perché non vi sentite bene. Il lunedì mattina dovete fare la telefonata al lavoro da casa vostra. Dopo aver deciso che tipo di malattia avete, studiate bene i sintomi. Chiamate in ufficio appena suona la sveglia con la bocca ancora impastata e la testa sotto il cuscino e soprattutto giocatevi la carta della malattia contagiosa. Mantenete un basso profilo anche sul web. Dimenticate Facebook o Twitter che vi smaschererebbero in un nanosecondo. 800 24 0024, stiamo iniziando a darvi delle istruzioni per affrontare un lunedì lavorativo, soprattutto che cade per estrema iattura dopo un lunghissimo e massacrante ponte festivo. Il primo dei i nostri messaggi è tratto dal manuale di resistenza al lunedì, edito da Mondadori, che fa, diciamo, la raccolta di una serie di istruzioni che sono già pubblicate sul sito resistenzaumana.it. Ma visto che il mio appello di poco fa non è stato vano, ha chiamato Angela, che è un medico. Angela, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Buongiorno dottore, lei se la sente di visitarmi questa mattina in diretta radiofonica? Io me la sento perché lunedì mattina non lavoro, quindi diciamo che... Ma non lavora nessuno lunedì mattina, siamo gli unici noi a lavorare. Beh, diciamo che i dentisti specialmente... Ah, lei è dentista, dunque allora, il mio malessere, scusate questa parentesi personale, la chiudo subito, nasce proprio perché io venerdì sono stato dal dentista, mi ha fatto un intervento alla mascella. Per questo ho chiamato, perché sono sicura che è un problema di denti. Ma perché si gonfia il collo? Questa cosa, già l'avevo sentito in radio. E quindi cosa devo fare? No, ma questo bubone mi sta nascendo dentro il collo come fosse un alieno, non riesco nemmeno a inghiottire. Proprio nella zona dove era intervenuto il dentista? Sì, più o meno. Dallo stesso... Cambia dentista. No, perché cosa è combinato? È reversibile? No, veramente devi lo posso dire, devi prendere antibiotici e devi sicuramente, insomma, farti vedere dal tuo dentista. O dalla tua dentista, non so se è un uomo o una donna. Sembra qualcosa che mi pregiudicherà la mia vita, oppure è una cosa così, posso resistere fino oggi pomeriggio? Ma io se fossi in te andrei a casa. Adesso interrompo, va bene, ci sentiamo sentiti signori, è stato un piacere, grazie dottore, mi ha molto rinfrancato la sua telefonata e la sua diagnosi. Non ho ben capito ancora come mai le ghiandole si gonfiano se uno lavora dentro una mascella che è osso. Comunque evidentemente esistono delle cause che mi sfuggono, e questa mattina io ormai questa telefonata se l'avessi fatta mezz'ora fa sarei libero, ma in realtà devo continuare la trasmissione. Come restare svegli durante una riunione soporifera? Mantenete una postura corretta, testa alta, spalle indietro, schiena dritta. Non stravaccatevi sulla sedia, non portatevi cuscini o poggiatesta. Sono tutte cose che stimolano il sonno. Restate concentrati. Mettete la mano sinistra sul tavolo della sala riunioni tenendo le dita ben aperte e aderenti alla superficie. Con la mano destra prendete la vostra penna e provate a centrare lo spazio tra un dito e l'altro. Datevi dei pizzicotti, sedetevi in posizione scomoda, pungetevi la gamba con una penna o una graffetta e guardate fisso una fonte di luce molto intensa. Il fastidio vi terrà svegli. Alberto Bellanti è il curatore del libro manuale di resistenza lunedì, edizione Mondadori, da cui stiamo carpendo queste indicazioni di vita. Bellanti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diciamo che la sto superando a sinistra, sono arrivato a farmi chiamare da un dottore in diretta mentre sto lavorando. Direi che è un capolavoro questo. Però mi è servito a poco. Adesso sarei giustificato, potrei alzarmi e andarmene, però devo dire... E lo dico non per far schiattare chi mi ascolta, ma perché così in realtà il mio lavoro, la mia vita, il mio divertimento. Se me ne andassi da qua non saprei che fare questa mattina. No, certo, poi non sarebbe, se posso permettere, non sarebbe neanche, diciamo, elegante, nel senso che... Ma se uno sta male, sta male. Lunedì, non sfuggire al lunedì. Ecco, allora cominciamo. Lei dice questo, bisogna resistere, però ha fatto un manuale che in realtà è pieno di escamotage per alleviare la sofferenza del lunedì. A volte sì, a volte per sfuggire alla sofferenza di lunedì, a volte però per resistere a questa tremenda sofferenza e altre sofferenze da ufficio nella maniera più, diciamo, meno dannosa possibile, ecco. Ci sono moltissime altre situazioni in ufficio oltre al lunedì, purtroppo, cioè il martedì, il mercoledì, il giovedì, eccetera. Per lei è individuato nel lunedì, diciamo, senza fine, diciamo, il giorno in cui c'è il picco del malessere per l'impiegato, per il lavoratore in generale. Qual è il giorno? Il lunedì, dico. Beh, certamente. Perché perché è il giorno in cui si riprende la solita ritualità, la solita, appunto, quello che viene chiamato tran tran. Mi sta scrivendo in questo momento su Facebook Silvia, che è una professoressa, probabilmente sta facendo un'esercitazione ai suoi studenti all'Università di Milano. Dice: lunedì mattina a fare la guardia studenti che a forza di allungare il collo per copiare saranno cresciuti di 2 centimetri a fine mattina. Noi ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Mi raccomando, 800 24 0024, a me il bubbone non mi permette di avere fiato, ci sentiamo per capire come affrontare questa lunga, massacrante e infinita giornata del lunedì dopo le feste. Melog 2.0, come sopravvivere ai vostri colleghi. Ogni tipo di collega ha una sua pericolosità. Ecco alcune tipologie più diffuse. La macchinetta. La sua mente è interamente occupata dall'esecuzione precisa degli ordini del capo. Frase tipica: io non parlo, lavoro. Dannosità 2. Il piacione. Il suo obiettivo non è quello di essere efficace o giusto, ma di essere sempre apprezzato. Frase tipica: sfondi una porta aperta. Dannosità 4. Il collega veterano. Ha visto cose che voi umani non ve lo potete nemmeno immaginare. Frase tipica: qualche mese capirai. Dannosità 4. Il collega bastian contrario. Potete dirgli quello che volete, lui sarà comunque del parere opposto, per partito preso. Frase tipica: francamente non sono d'accordo. Dannosità 6. Il collega iperstressato. Sempre teso come una corda di violino, è perennemente sull'orlo di una crisi di nervi. Frase tipica: non si può andare avanti così. Dannosità 10. Sì, lo confesso, a me fa anche un po' schifo parlare di lavoro come se fosse una delle pessime iatture che colpiscono la nostra esistenza. Non vorrei galleggiare su paradisi iperbori e irreali. Mi stanno continuando a telefonare persone che in realtà o sono in cassa integrazione o hanno problemi di lavoro. Però dateci la libertà, la liceità comunque, anche di poterci esprimere su vari aspetti della vita. Non possiamo avere sempre presente il lancinante e condivisibile problema di altre persone. In questo momento stiamo parlando di una realtà che comunque provoca stress, provoca angoscia, provoca disperazione, provoca tristezza diffusa. Siccome tutti noi veniamo in la tristezza diffusa del nostro prossimo, è giusto che andiamo alle radici, alle scaturigini profonde, la tristezza diffusa che in questo momento avvelena il nostro animo. E ci fa guida in questo Alberto Bellanti, che ha curato il libro Manuale di resistenza al lunedì, edizioni Mondadori. Bellanti, vediamo di entrare nel vivo di qualche consiglio pratico. Chi è triste fa male anche a noi, diciamo la verità. La tristezza è un male che colpisce tutta l'umanità, disoccupati e occupati. Quindi vediamo di trovare quali sono le radici della tristezza e evitarla. Se posso solo permettermi una precisazione, io sono curatore con altre persone di questo libro. In realtà tutto è nato da un sito, che sito internet, che è partito qualche anno fa, appunto lei l'ha citato, www.resistenzaumana.it, che si proponeva proprio, diciamo, in forma molto così all'inizio dilettantesca, proprio estemporanea, di raccogliere tutti i materiali che sulla rete, anche inviati dai nostri visitatori, potevano riguardare l'ufficio e tutte le magagne che purtroppo spesso e volentieri si nascondono nella vita d'ufficio. Quindi poi nasce da un moto spontaneo di base di resistenza umana al lunedì. Sì, ecco, diciamo, il nome è un nome storico, insomma. Noi abbiamo Resistenza Umana, il famoso settimanale di Resistenza Umana, che era cuore. Il nome è stato ripreso proprio con questo spirito, insomma. E poi in effetti, una volta partito il sito, ci siamo accorti che tanta gente, diciamo, sentiva questo problema. Insomma, può essere il problema del lunedì, può essere il problema dei colleghi, può essere il problema del capo, ma in qualche modo un disagio che non è, attenzione, il disagio del lavoro di per sé, ovviamente. Non è un moto di ribellione. Senta, però al di là delle nozioni pratiche condivisibili. Vedo alcune parti nel suo libro che sfiorano la surrealtà. Ora, avendo fatto 20 anni in un'azienda pubblica, so esattamente che non esistono limiti all'improbabile nel lavoro d'ufficio. Io lavoravo in un'azienda in cui mettevano, che era un grande palazzo vetrato imbottito d'amianto, di cui si sta parlando in questi giorni, spostavano gli armadietti di fronte alle vetrate per poter avere privacy con le segretarie, quindi può succedere di tutto. Però lei mette alcune attività per dormire durante l'orario d'ufficio. Ci sono certe che mi sembrano un po' di difficile pratica, come fingendo di allacciarsi le scarpe alla scrivania. Questo sì, ovviamente il libro gioca su dormire paradosso. Sotto la scrivania non è possibile. Beh, io conosco gente che è capace di dentro fare. L'armadietto? Dentro l'armadietto forse no, però secondo me con l'esercizio si riesce a fare tutto. In bagno sì, è vero. No, il problema è che è possibile. Noi giochiamo sul paradosso e in effetti si prende anche un po' in giro dei manuali molto seri, soprattutto in ambito anglosassone, penso, quei manuali, diciamo, come vivere bene il lavoro, no? Ci sono tutta una certa pubblicistica che a volte è più paradossale del nostro, insomma. Tanto beh, mette in giro di solito questi manuali la stessa mente perversa che in realtà crea delle catene indissolubili alle liturgie quotidiane dell'ufficio. Moltiplica lo stress anziché ridurlo, diciamo. E ovviamente noi giochiamo su questo genere, diciamo, di consigli. Per quanto, ad esempio, lei ha fatto cenno a dormire, l'esigenza di dormire in ufficio non è mica una cosa così diciamo sacrilega, insomma. Ci sono aziende che hanno istituzionalizzato il pisolino, no, dopo pranzo, proprio per permettere ai lavoratori di produrre meglio nel pomeriggio, insomma. Sì, ho visto persone attrezzarsi durante gli straordinari serali con scrivania a due piazze. Però sentirei qualche ascoltatore. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei fa parte dell'elenco dei fortunati, questa mattina non fa una mazza. No, sono in macchina che sto andando da un cliente perché faccio il libro professionista, lavoro per l'edilizia e praticamente sto andando da un cliente adesso in questo momento. Abbia un suo consiglio per il lunedì. Guardi, io la penso così come ottica, che secondo me tutti gli ascoltatori dovrebbero prendere. Se la mattina, del lunedì mattina, la prendi con filosofia e dici tanto la settimana dura poco, arriva già subito il fine settimana, secondo me si passa meglio lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e così dicendo. Beh, guardi, finché non si scavalla il giovedì è dura, perché lo so, uno può fare questo discorso il giovedì mattina, ma il lunedì è un po' dura. Lo so, però se si è con la buona ottica di, che dire, vabbè, oggi è già andata, domani arriva, così già è martedì, così martedì è già mercoledì, secondo me è passato in fretta. Poi, vabbè, io se posso dare un suggerimento è trovarsi delle vie di fuga durante questa settimana, avere degli spiragli nel quale potersi infilare, avere qualcosa al di fuori della routine che rappresenta una piccola lumino acceso nel buio e nella tristezza del quotidiano. Ascoltiamo altri ascoltatori, però mi piacerebbe sentire anche qualche donna, perché a parte la dottoressa che così gentilmente mi ha fatto la sua diagnosi di irreversibile malattia, non vedo signore, forse le signore sono più occupate questa mattina. Elio, buongiorno. Elio, sì, buongiorno. Eccolo, insegnante. Sì, sono insegnante. E la sento un po' giù di tono. Volevo solamente dire che io sto facendo il mio lavoro e lo faccio abbastanza volentieri, per cui per me non esiste un lunedì o un martedì o un mercoledì. Anzi, il lunedì bisogna essere un pochino più attivi, perché gli studenti sono meno di solito vogliosi di lavorare, ma io credo che non esista un giorno, se uno fa il lavoro che gli piace, no? Non credo che esista. Oltretutto io sono uno che è alla depressione del weekend, per cui... Sì, la sento, ho detto, infatti la sentivo un po' giù di corda, si sta riprendendo, il tipico mal di testa del sabato. Della domenica, diciamo, il sabato invece è pieno di attività, la domenica invece è il momento in cui, la domenica sera, cioè, arriva la depressione, dunque il lunedì mi sento abbastanza. Beh, questo accade soprattutto, ecco, quando le giornate sono corte d'inverno, in effetti alle 4:30 di pomeriggio della domenica un po' di spleen prenderebbe chiunque. Placido, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo perché per me il lunedì è il giorno più bello della settimana. perché io lavoro nel campo della ristorazione e lunedì è il giorno di chiusura, il giorno di riposo. Ah, quindi anche parrucchieri dividono questa felicità del lunedì, è vero? Parrucchieri probabilmente sono... fotografi. Molti negozianti. Esatto. Quindi è il giorno più bello, tutti lavorano, lei ha questa coda lunga di riposo? Beh, non è che sia tanto lunga, però è rilassante. Sì, però lei si massacra fino a domenica sera. Beh, diciamo che oramai alla mia età, diciamo, il mestiere è molto incarnato, per cui non è che mi sia particolarmente difficile. È difficile quando hai un'età giovane che devi sacrificare i giorni di lavoro, quando i tuoi amici vanno fuori, ma una volta superato quel problema, anzi, diventa molto normale per me. Ecco, io mi sto rendendo conto che questa mattina, che doveva servire da farmaco corroborante per coloro che affrontano il lunedì, in realtà è divisa in due grossi filoni. Le persone che oggi stanno a casa, mi stanno scrivendo amici e amiche, questa mattina hanno la fortuna di sentirsi male, quindi dal loro pseudo letto di dolore dice: ah, questa mattina sto a casa, ti ascolto sotto le coperte, ecco, per dire. Quindi abbiamo una parte quelli che sfangano il lunedì per una serie di escamotage, di incidenti domestici, di vicende varie. Poi ci sono quelli che in realtà fanno professioni che li portano a massacrarsi i giorni in cui gli altri si lasciano abbandonare dalla depressione del giorno festivo, e il lunedì guardano gli altri attivi come formichine nel formicaio e loro se ne stanno tranquilli. Ma in realtà non abbiamo dato nessuna vera formula di felicità o di alternativa a quello che potrebbe essere lo stress del fine settimana, a meno che ci può aiutare Giallo. Giallo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giallo, vedo il tuo nome, scrive Diallo, ma si pronuncia Giallo. D-I-A-L-L-O. Da che parte del mondo provieni? Io vengo dal Senegal. Ah, dal Senegal. Dimmi allora, come mi vuoi aiutare? Io sento che stai male, hai quella che è gonfiato. Sì. Tutto quanto. Ah, è un consiglio medico, sciamanico. Sì, volevo dirti, se ce l'hai acqua calda con te Lipton. Sì. Se è un altro tè è la stessa cosa, se no sembra che... Non ho capito, scusa. Anche un'altra marca di tè va bene, un tè qualsiasi. Sì, qualsiasi tè. Sì. Tu prendi una metà cucchiaio di sale. Dentro il tè? Dentro il tè. E mi vuoi far vomitare, mica mi sono ubriacato. No, non ti fa vomitare proprio. Prendi un tracino di limone. Sì. Che aggiungi un cucchiaio di zucchero e poi bevi, vedrai che tu avrai una migliore della giornata. Dico io. Allora, sale, zucchero, limone e tè. Sì. Guarda, io ci provo, ma ho il tuo numero di telefono. Poi io ce l'ho 33. No, no, non lo dire alla radio. Ce l'ho, nel senso, io ce l'ho, se non te l'hai chiamato. Spero che questo sistema funzioni e mi riporti vigoroso e gagliardo alla conduzione di questa trasmissione. Pensare che sale e zucchero insieme al tè, però chissà, forse questo è il rimedio. Melog 2.0. Alcune regole da imparare per sopravvivere al proprio capo. Il capo ha sempre ragione. Il capo non dorme mai, riposa. Il capo non è mai in ritardo, è stato trattenuto. Il capo non lascia mai il lavoro, è richiesta altrove la sua presenza. Il capo non legge mai il giornale in ufficio, si tiene informato. Il capo non tresca con la segretaria, la educa. Ora, io ho memoria, ma penso chiunque me lo possa confermare, che dietro la scrivania di ogni ragioniere capo, di ogni sovrintendente alle signore delle pulizie, di ogni vice caporale in qualsiasi ufficio d'Italia, esiste questa regola del capo, bella, scritta, in cui dovrebbe far scrivere, dovrebbe far ridere, dovrebbe far riflettere. È il primo suggello di un'autorità conquistata con grandi fatiche, con grandi scivolosità. Ora, devo dare testimonianza di un altro filone di telefonate. Oltre alle persone che mi chiamano perché non hanno lavoro, perché sono precari, perché sono disoccupati, cassa integrati, che mi dicono beato chi ha lavoro, mi chiamano anche gli stacanovisti, i mistici del lavoro, dice non ti vergogni, con questa sorta di quasi oltraggio alla liturgia del dovere quotidiano. Beh, abbiate la leggerezza di poter permettere al prossimo vostro un po' di ironia qualche giorno. Ognuno di noi lavora tranquillamente, io stesso sto lavorando in questo momento, le persone di fronte a me, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, stanno lavorando, tante persone ci chiamano e ci dimostrano che esistono anche delle alternative al lavoro inteso come punizione, inteso come condanna. Se uno lo intende come tale, può anche guardarsi intorno, può anche trovare delle maniere per vivere meglio e per non affossare il proprio prossimo con la propria tristezza e con la propria frustrazione. Il senso profondo di questa giornata, di questa mattinata, di questa chiacchierata disimpegnata con una sorta di bubbone che mi cresce in gola, è semplicemente quello di cercare di trasmettere un po' di voglia di leggerezza. Se ci riesco bene, se non ci riesco, pazienza. Mario, buongiorno. Buongiorno, senta, io intervengo, piacere di conoscerla innanzitutto in merito al problema che lei rappresentava questa mattina, sì. Questo problema personale. Ah, lei è un medico? Sì, io sono un medico di pronto soccorso e odontoiatra. Anche lei odontoiatra? Per cui credo di aver capito la sua situazione. Mi spieghi. Ecco, ha avuto dolore? Beh sì, ho fatto l'intervento all'osso abbastanza doloroso, sì. È una cosa recente? Sì, sì, venerdì. Può dirmi di che si tratta? Ma sì, una canalizzazione. Guarda, qui non devi dire le sue ovvie cose. Quindi è stata completata o è ancora in fase di medicazione? È in fase di medicazione. Perfetto, quindi la cosa sicuramente ha una partenza da questa fase di medicazione. Il mio suggerimento è quello, a meno che la tumefazione non sia molto estesa, di attuare una terapia antibiotica aggressiva anche per bocca. Ah. Immediatamente, sì. Ovviamente io qui adesso non credo di poterle dire che no, ma guardi, ho una gruppi farmacista che sta proprio qui a piazza della Repubblica, qui accanto alla radio, quindi già avrà sentito la radio, già preparerà il medicamento. Posso darle indicativamente la sostanza chimica, non la molecola. La molecola, sì. Qual è la molecola? Amoxicillina. Allora, la farmacista... 3 grammi subito insieme, sì. Poi uno ogni 8 ore orientativamente per 6 giorni. Perfetto, lei è veramente gentile. Ma domani con questo tipo di diagnosi posso stare a casa? Lei mi farebbe un certificato? No, io non ne posso fare certificati. Ah. Quelli sono pertinenza dei medici di base. Ma lei è medico? Sì, ma non posso farli. Ah. No, va bene, io pensavo. Sono pertinenza dei medici di famiglia. Vabbè, io tanto, la mia farmacista personale che è qui accanto sta già preparando la molecola, avrà sentito, io passo lì, finita la trasmissione, mi prendo per via orale il medicamento, lei mi dice, sarò salvo. Tre subito insieme, uno ogni 8 ore, poi per 6 giorni e sciacqui con acqua e sale. Grazie infinite, dottore, grazie. Simone. Simone, sì, pronto. Avanti. Buongiorno. Scusi, questa parentesi personale, ma fa parte anche dell'interesse di chi mi ascolta il fatto che io riesca a parlare. Avanti, Simone. Ma guardi, io ho un metodo infallibile, va avanti addirittura da quando sono fidanzato. Basta litigare la domenica sera con la ragazza o con la moglie, arrabbiarsi per qualche motivo. Se poi non ci se la fa, insomma, non è difficilissimo. Lunedì mattina molto presto e litigare con la moglie. Allora si va in ufficio discutendo di quello che ti ha detto, di quello eccetera eccetera. Quindi poi azzannarsi in famiglia il fine settimana. No, addirittura si può arrivare che non lo so, il lunedì sera si fa la pace, si fa l'amore, quindi chiude. Ah, quindi lei sposta tutti i ritmi del diciamo del debito coniugale dal sabato sera al lunedì, così ha questa coda lunga di odio che le permette di affrontare in realtà lo stress del quotidiano mattutino del lunedì. Si discute anche tra amici, tra colleghi. Ah, ma quello che mi ha detto, ma quello che mi ha fatto, ma ti rendi conto? Sì, questo allora... poi è anche un grosso vantaggio per la produttività della sua azienda. Bene, grazie. Lina, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Sì, volevo fare un intervento sul discorso del lunedì mattina, che non è un problema del lunedì mattina, è un problema di visione che uno ha della propria vita. Perché praticamente, scusi che spengo il navigatore perché altrimenti... Alto, ha acceso il navigatore, sì. No, sì. Poi dopo individuiamo la sua privatezza, dove lei sta andando in questo momento, non vorremmo mai che lei scoprisse itinerari clandestini questa mattina alla radio. No, non c'è niente, stavo andando a casa da un cliente. Comunque, il discorso secondo me fondamentalmente è che le persone che vedono così pesante il lunedì è perché fondamentalmente hanno una visione negativa della vita un po' in generale, perché il lunedì non è altro che un qualsiasi giorno se io vivo la vita come una valle di lacrime, dove comunque tutto è negativo, tutto è contro alla mia libertà, eccetera, è ovvio che il lunedì mattina diventa un giorno pesante, perché vivo il lavoro come aspetto finalmente la pensione. Allora, chi si compiace nella depressione, negli aspetti persecutori della propria esistenza, il lunedì ha il culmine di queste sue patologiche inclinazioni e quindi logicamente soffre più del resto. Ma comunque è un suo atteggiamento generale verso la vita, è una sua Weltanschauung, una visione della vita particolarmente negativa. Andiamo avanti, Fabio. Fabio. Buongiorno Gianluca, io la seguo dai tempi di Golem. Ah, non deve dirlo, questo nome porta una sfiga tremenda, prego. Allora non lo diciamo. Dunque, io devo dire, il lunedì lo vivo come tutte le altre giornate. Io ho fatto una scelta comune ad altre persone, non tantissime, cioè quella di lavorare a casa. Mm-hmm. Io, il mio studio, la mia attività professionale è a casa, una scelta che ho fatto anni fa, dopo molto tempo passato in grandi aziende, in piccole aziende, nelle quali ho avuto mediamente un'esperienza positiva. Ho incontrato delle persone interessanti, non mi sono mai identificato nel Fantozzi della situazione, per intenderci, ecco. Infatti questo però, diciamo, è il contributo che mi aspettavo per sdrammatizzare le vestali che sempre vorrebbero un rigore adamantino in ogni esposizione. Dipende dalle aziende, dipende dai luoghi di lavoro, dipende dal ruolo, dipende dal proprio stato d'animo personale, dipende da come uno si mette in gioco, da quanto si mette in gioco, dal lavoro che fa, da una serie di fattispecie. Ci piace noi crogiolarci nel luogo comune, ma non è sempre così, o non necessariamente è così. Sentiamo un attimo Alberto Ballantini, che ha composto un manuale fra il serio e lo scherzoso Alberto Bellanti sull'affrontare il lunedì. Ecco, lei ha una sua particolare formula rispetto a tutte queste persone che contrappongono in maniera così manichea il lavoro d'azienda con la libera professione, considerando il primo come il vero luogo della depressione del lunedì? Ma non è detto, la libera professione poi porta ad esempio a non avere orari, cosa che spesso, voglio dire, cosa che poi può anche essere più depressiva che non avere, diciamo, un tran tran settimanale che perlomeno il sabato e la domenica si interrompe. Io direi che in tutte in entrambe le esperienze ci sono i rischi e pregi, insomma, per cui non farei una divisione così manichea. Ovviamente, come diceva lei, insomma, è importante il modo in cui l'individuo si pone, no? Di fronte al proprio lavoro, lo diceva anche un'ascoltatrice, e è importante anche l'ambiente in cui lavora, perché appunto noi con questo libro non è che abbiamo voluto stigmatizzare l'ufficio di per sé, c'è un certo modo di lavorare che insegna, diciamo, della super efficienza, della produttività, di tutta una serie di meccanismi che devono essere assolutamente rispettati, poi porta a non considerare più che cosa veramente prova. Ecco, se non è felice, se ha voglia di impegnarsi, e questo purtroppo poi causa un danno anche alle aziende stesse. La devo interrompere perché sente, c'è la sigla sotto che ci fa capire che la trasmissione è finita. Devo dire che è crogiolarsi, osservare, analizzare il luogo comune molte volte aiuta a gestirlo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.